Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il libro di questa settimana è un libro che dovrebbe piacere a coloro che amano i romanzi d'azione, tesi e pieni di colpi di scena, imprevedibili, eccetera, a coloro che amano, come dire, le proiezioni futuribili, cioè le previsioni su come sarà la nostra società tra una sessantina o settantina d'anni al massimo, e last but not least, come si dice, anche alle donne, ma anche agli uomini che seguono il dibattito del femminismo. Quante cose in un solo libro, eh? Allora, il libro si chiama Cyber Golem ed è di un'autrice americana molto interessante, Marge Piercy, di cui è stato pubblicato finora in Italia un solo romanzo precedentemente, che è Sul filo del tempo. Li ha pubblicati entrambi la casa editrice Eleutera, benemerita perché ci porta vari testi che altrimenti probabilmente non conosceremmo. E di che cosa si tratta? Bene, si tratta, tanto per cominciare, un'altra attrattiva del libro è che ci racconta, come dice il titolo italiano, bruttino peraltro, ma insomma che perlomeno dà un po' subito l'idea. Ci racconta una storia antica che molti non conoscono, cioè quella del Golem di Praga, quella dell'uomo artificiale creato con l'aiuto della Kabbalah e dei testi della mistica ebraica dal Maharal, cioè dal rabbino Levi, verso la fine del Cinquecento, una bella leggenda della modernità praghese in cui la creazione dell'uomo raccontata nella Bibbia viene praticamente ripetuta, cioè si forma questo uomo di Creta, e di cui forse alcuni di voi ricorderanno il bel film di Paul Wegener dei primi degli anni 20, 1920-21, non mi ricordo, ma ce ne sono stati molti, insomma il Golem. Quindi viene raccontata nuovamente questa, diciamo, storia, però la storia del Golem, molto particolareggiata e molto bella, viene inserita dentro un intreccio che si svolge appunto invece alla metà del XXI secolo e in cui si parla di cose direi molto interessanti per noi, cioè lo scenario del mondo che appunto ci racconta Marge Piercy tra 60 e 70 anni è quello di un mondo in cui ci sono state diverse catastrofi, tra cui per esempio una bella guerra nucleare nel Medio Oriente che ha cancellato praticamente in un sol botto Israele, Giordania, Siria, Libano, e un tot di altre aree vicine, e il mondo è praticamente diviso in tre grandi zone. Da un lato le grandi bolle delle multinazionali che si sono praticamente create delle città e gestiscono direttamente un potere politico per conto loro, in alleanze e anche in contrapposizione fra loro. Poi alcune piccole enclave che sono le città libere, cioè diciamo comunità di artigiani specializzati ovviamente in informatica e altre cose, che riescono a essere indipendenti, sia pure in modo conflittuale, vendendo i loro prodotti alle multi, ma senza essere sotto il loro tallone, come dire, politico e comportamentale. E da ultimo invece, diciamo, la Caienna, l'inferno dei, diciamo, reietti, che qua si chiama il Glop, che è molto simile a quello che descrisse, diciamo, Gibson come sprawl, cioè questo grande agglomerato. Ecco, diciamo, dalla interazione fra questi tre blocchi, fra questi tre grandi, come dire, mondi, esce fuori l'intreccio del, insomma, romanzo, che è, ovviamente parla in gran parte di persone di origine ebraica. E sono tre donne, soprattutto le così protagoniste, e naturalmente un essere sintetico dell'appunto futuro, un nuovo golem, un androide che si chiama Yod con una lettera dell'alfabeto greco, di cui scoprirete, come dire, non soltanto il valore fisico e la forza eccezionale, la mente acutissima, ma anche diciamo, anche delle capacità più umane, perché c'è una bellissima storia d'amore, insomma. Bene, non voglio rivelarvi altro di questo libro perché è una, diciamo, lettura, ripeto, che è insieme avvincente e nel contempo affronta però un sacco di temi importanti, insomma, dell'oggi. È un libro di mole non indifferente, sono 494 pagine. Il costo però è abbastanza contenuto perché mi sembra, sono 35.000 lire però per 494 pagine, edizioni Eleutera Cyber Golem. Questa sera parliamo di horror, cari amiche e cari amici. Che chi può dire che cosa sia diventato, che cosa sia l'horror contemporaneo? Ormai è frammentato in una serie di sottogeneri, insomma, splatterpunk, racconti di fantasmi, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente dominato ancora dal punto di vista della logica del mercato dal grande Stephen King, che la lunghezza dei cui libri continua pericolosamente ad aumentare di libro in libro. Ecco, proprio per questo forse volevo consigliarvi questa sera una cosa completamente diversa, cioè una antologia. Io personalmente continuo a credere che nella letteratura di genere, horror, fantascienza, fantasy, eccetera, la misura del racconto sia a volte più produttiva di quella del, insomma, romanzo. Quindi, ed è per questo, a me piacciono molto, devo dire, le antologie, anche perché sono più comode da leggere, non ci si deve ricordare tutte volte, basta leggere, si legge di volta in volta un, diciamo, raccontino. Bene, l'antologia che vi segnalo adesso è uscita da qualche mese, si chiama Horror il meglio, edita dalla Nord, è un bel malloppone perché sono 470 pagine, ma insomma, ripeto, ci sono più di 20 racconti, credo. Il prezzo non ve lo so dire perché la Nord mette sempre dei tagliandini che poi sfuggono quando si toglie la plastica e quindi non si trovano più, ma comunque non sono mai molto cari, li vengono a costare sulle 20, poco più di 20.000 lire, 20-25.000 lire. È a cura di Stephen Jones e Ramsey Campbell, è un'antologia uscita nel 93 negli Stati Uniti e presenta una serie di autori, alcuni abbastanza noti come lo stesso Ramsey Campbell, che secondo me non è un grandissimo narratore, Clive Barker, Christopher Fowler, di cui sono uscite varie cose anche in italiano, l'algido intellettuale Peter Straub, ci manca King, ma insomma, perché King non sempre si concede. Poi c'è John Branner, eccetera, insomma, rappresenta comunque uno spaccato un po' di vari temi e di varie cose. Vi segnalerò al volo così le cose che mi sono più piaciute. Un racconto di Scott Edelman, l'artista suicida, veramente tipo horror psicologico, insomma, complicità fra autore e lettore. Una cosa insolitamente lieve, sembra più un fantasy che, diciamo, un horror, di Clive Barker, I defunti. Una cosa invece inquietantina assai su gli animaletti di Liza Tuttle, I sostituti. Una cosa anche questa un po' più sul fantasy, che è Aviatrice di Peter Atkins. Ma soprattutto vi dirò adesso la vera e più importante, secondo me, ragione per la quale vi consiglio di leggere questa antologia, ed è perché contiene, a mia conoscenza, il primo racconto di Poppy Z. Bright tradotto in italiano, Come cavarsela a New York, che purtroppo reca un bellissimo gioco di parole intraducibile nel titolo originale, How to get ahead in New York, dove get ahead può voler dire sia cavarsela sia procurarsi una testa, e chi leggerà il racconto vedrà che cosa. Si tratta di un ritrattino di due giovanotti della North Carolina che sbarcano a New York e incappano in una serie di disavventure, appunto, con sfumature, anche a volte con sfumature un poco pesanti, horror, molto, molto bello, molto, insomma, divertente. Perché vi dico questo? Perché Poppy Z. Bright, signorina di New Orleans, anche un bel aspetto, insomma, una faccia un po' pacioccona, però degli occhi penetranti, frangetta di capelli neri, caschetto, eccetera, che ha fatto di tutto nella vita, compresa la spogliarellista, prima di cominciare a scrivere, mentre già scriveva racconti, perché il primo racconto l'ha scritto a 12 anni. Poppy Z. Bright, dicevo, è la vera grande rivelazione dell'horror negli USA degli ultimi 2-3 anni, è popolarissima nel suo paese, quasi invece ignota da questa parte dell'Atlantico, ma vi anticipo che tra qualche mese dovrebbe uscire per Bompiani il suo primo romanzo, che si chiama Lost Souls, Anime Perdute, e i cui protagonisti, Steve e Ghost, sono gli stessi di questo raccontino che sta contenuto in questa antologia. È un'autrice da tenere d'occhio perché ha uno stile personalissimo, un modo di coniugare il raccontino di ambientazione urbana, la descrizione abbastanza realistica di quello che succede nelle grandi città, diciamo, di oggi, però con l'occhio un po' della, non proprio della sua provinciale, ma di quella del sud, che lei è nata e cresciuta a New Orleans prima di trasferirsi. E insomma è un'autrice che vi segnalo con un certo gusto e con un certo piacere, oltre a tutti gli altri di questa antologia, che quindi, ripeto, Horror, il meglio, a cura di Stephen Jones, Ramsey Campbell, editrice Nord. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciò a cui avete assistito fa parte della strategia della tensione, la stessa strategia usata dai terroristi di sinistra, commentò Jenkins. Beh sì, i propagandisti di estrema destra hanno coniato questo termine riferendolo alle sinistre, ma in realtà è sempre stata la destra ad usare questa strategia. Terrore e disordine creano un'atmosfera di tensione che prepara il terreno a un colpo di mano, creando un alibi attraverso il quale poter agire alla luce del sole nel tentativo di liquidare una non meglio precisata minaccia della sinistra.